Avvocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Abbracciami, c'è poco da capire, solo abbracciami, un'ora può valere molto se ci dà felicità. Abbracciami, le cose belle, quelle che ti piacciono, se non le aspetti poi le trovi lì. Abbracciami. Mamma mia, un inglese, qualcos'altro di un po' più forte, no? Giorgio De Luca, il nostro autore, ha scelto Ferronati in regia, non lo so. Però il punto è un altro, io abbraccio idealmente Federica Brignone e Marta Bassino, che sono arrivate prime e terze nello slalom di Plan de Coron per uno sci italiano che va sempre più forte, e lo abbraccio con grande calore. Abbraccio tutti i giorni Giorgio De Luca perché è mio amico, tra poco abbraccerò anche Pierluigi Pardo quando arriva sulle scale, mi dicono. Abbraccio con grande affetto tutti i ragazzi del Master in Radio e New Media Management, si dice così, che sono in nostra compagnia, e più tardi abbraccerò un idolo come Ruth Gullit. Andrea De Marco ha fatto l'arbitro, posso abbracciare idealmente anche te, seppur al telefono? Certo, buon pomeriggio. Ciao. Senti, tutto sto casino per l'abbraccio di Buffon, che poi oggi è stato replicato con l'abbraccio, la foto di Tutto Sport, abbraccio di Donnarumma, credo, a Rizzoli. Ti è mai capitato di ricevere un abbraccio da un giocatore? Sì, ma è capitato, infatti. Ma io appena ho visto l'immagine domenica, finita la partita, ho detto qua sicuramente poi ci ricameranno sopra, faranno certo. Le solite cose, come era successo l'anno scorso per una cosa un po' diversa con Bonucci e Rizzoli, se vi ricordate. In effetti sì. Poi così è stato, è chiaro che un abbraccio è una cosa che può capitare. Poi lo sport, qui non si tratta di, io ho sentito parlare di processi, giudici, qui lo sport è una cosa che porta emozione. A fine gara ci sta anche un abbraccio fra un arbitro e un calciatore. Ma assolutamente. Non vedo nulla di male. Ma assolutamente. Ma non perché ci vogliamo tanto bene, ma perché poi siamo italiani, siamo abituati a queste manifestazioni d'affetto. Assolutamente. La domanda piccante è: se invece fosse stato un altro arbitro e non Tagliavento, ce ne saremmo accorti? Ma infatti, assolutamente, infatti è questo. Ma quanti ce ne sono? Infatti adesso voglio da domenica prossima controllare a fine partita quanti ce ne saranno di abbracci, che ce ne sono già stati parecchi. Io ieri vedevo poi su web diverse immagini anche di diversi arbitri, appunto, che abbracciavano altri giocatori di altre squadre. Anzi, a me sembra un bel gesto, ma perché ma in campo si è colleghi, no? Sempre di violenza verso gli arbitri, di episodi comunque che... Questo è un episodio che è assolutamente un episodio genuino, poi che è avvenuto a fine partita, una gara senza polemiche, senza nessun tipo di situazione particolare che si sia verificata in campo, quindi alla fine è una cosa che ci sta assolutamente. Sì, come la pacca sul sedere, come sono cose che a me non si è avversari, arbitri e giocatori, si è compagni in uno stesso gioco, sebbene con ruoli diversi, è una cosa che a me semplicemente piace, anzi vorrei lo facessero tutti, un bel abbraccione collettivo. Magari chissà che dalle prossime domeniche non si verifichi più spesso. Come direbbe Piccinini, il mucchio selvaggio, Andrea, come direbbe Piccinini. No, piuttosto, prima di salutarti, volevo passare invece dall'amore all'odio, mentre sto odiando Pardo che non arriva, ma mi dicono sempre che è sulle scale, forse fermato l'ascensore. No, forse è sull'ascensore. Più tardi sarà con noi alle 15... nei nostri studi, in carne ed ossa, voglio abbracciarlo, Ruth Gullit. Ecco, grande protagonista del calcio mondiale. Van Basten invece l'altro giorno in un'intervista, che sta lavorando con la FIFA come tutti sappiamo, dice non vorrei, decidessi io, più vedere capannelli intorno agli arbitri, il famoso comitato di accoglienza che troppo spesso vediamo. Parla il capitano, va lì, punto e basta, come si fa sui campi delle giovanili inglesi. Questo è, il regolamento lo prevede già, questo, tra l'altro, che parla solo il capitano in casi, cioè comunque non neanche sempre, soltanto in casi particolari, in situazioni particolari. È chiaro che è diventata un po' una consuetudine quella comunque della protesta di gruppo di diversi giocatori che vanno, e il regolamento comunque prevede che l'arbitro deve intervenire con ammonizioni o, se sono proteste esagerate, anche con provvedimento di espulsione. È chiaro che in Italia le vediamo sempre, sempre meno. Magari all'estero è già più difficile, forse anche per un problema di comunicazione, che è anche magari più difficile, sì, per un calciatore andare a parlare con un arbitro, anche se la lingua è l'inglese, comunque non tutti poi la parlano a livello, parlano bene la lingua, quindi ci sono delle difficoltà. In Italia, fra la tra virgolette confidenza che c'è fra i calciatori, perché poi gli arbitri sono 21, mm-hmm, le squadre sono sempre quelle, ti vedi sempre ogni anno, ti incroci diverse volte fra addizionale e arbitro, quindi c'è anche un certo tipo di rapporto che non c'è all'estero, perché all'estero magari l'arbitro lo vedi la prima volta, certo, e poi ti capita altre volte. Quindi sicuramente la protesta è brutta da vedersi dallo stadio, dalla televisione, e sicuramente deve essere, ha ragione quello che diceva Ambasse, che deve essere, bisogna trovare un sistema per cercare di moderare i comitati d'accoglienza, che sono di gran moda. Ti abbraccio, Andrea De Marco, ti abbraccio. Un abbraccione, un abbraccio anche a voi. Un abbraccio forte ad Andrea De Marco, ex arbitro naturalmente e opinionista ormai di Mediaset. Allora, odio e amore, due facce della stessa medaglia, cos'è successo in Francia? A Bastiano l'hanno accolto bene, Mario Balotelli, come sapete, lui si è furiosamente lamentato per questi cori e per ululati razzisti che ha sentito. Qualcuno avrà pensato, meno male non succede solo in Italia. Io non penso così, dico soltanto purtroppo succede. No, non ci posso credere. Oggi veramente puntata numero uno. Si è presentato Pierluigi Pardo con la torta. Ha portato la torta. Buonasera. Adesso ti spiego. Bellissime donne, uomini splendidi. Ma che è? Una sfilata di noi modelli. Intanto io mi alzo e vado ad abbracciare Pierluigi Pardo. Posso? Ma non siamo in TV, siamo in radio. Io non la sto fermo e presido il microfono. De Luca. Allora ti vengo ad abbracciare. Che cosa vuol dire? Ah, questa cosa. Ah, tagliamento. Molto amici, però molto bene. Ma sì, dai, la polemica di Tagliavento è abbastanza ridicola, possiamo dirlo. Insomma, poi è vero che Buffon ce l'ha, quell'atteggiamento ce l'ha con tante persone, quindi perché siamo di italiani, di che stiamo parlando? What are we talking about? Allora, quindi abbiamo chiuso il discorso che abbiamo fatto prima anche con De Marco in tua contumacia. Allora io vi ascoltavo, eh. Adesso voglio far sentire invece, adesso ti mettiamo a posto i bottoni mentre c'è il traffico, però prima che cosa ha detto su Balotelli Ventura ieri a Tiki Taka a Pierluigi Pardo. Sentiamo signor Ventura. Balotelli calciatore, nessuno l'ha messo mai in dubbio, credo. Le qualità del giocatore sono indiscutibili. Il problema non lo posso risolvere io, lo deve risolvere Balotelli con se stesso. Poi le risposte le deve dare lui a se stesso, perché ripeto, è un peccato che tanta qualità vada, tra virgolette, un po' sprecata. Allora, tutti convocati. Convocati. Allora è arrivato Pierluigi Pardo. Adesso c'ha un'aria più matura, è stato qualche giorno a Napoli, lo vede proprio, è più uomo. No, ma lo vedo più uomo. Allora, no, allora stamattina De Luca, tu sì, chiedevi. Ma io lo vedo più uomo. Più uomo. No, vai pure, di. Però lo vedo uomo. Voglio presentarti questi ragazzi che sì, sono BG's, qui. Sì, BG's, eccoli qua, quattro uomini. In parte in studio, in parte al di là del vetro, sono tutti molto curiosi anche di toccarti in carne ed ossa, anche le signorine. Beh, allora, fanno parte del Master in Radio e New Media Management che stiamo tenendo a Radio 24 in collaborazione con RDS, e qui il professor De Luca questa mattina sono stati adesso al professor Cruciani nella classica lezione gli errori da evitare, no? Come mettere zizzania in qualsiasi situazione della vita, c'è una serie di barbe hipster fra l'altro clamorose, ma ci sono anche i ragazzi invece sbarbati, sicuramente con un'aria un po' più presentarci bene, tiri acqua al tuo mulino, insomma. Beh, è chiaro. Più tardi aspettiamo Ruud Gullit, che arriverà verso le 3 ieri sera. Siete usciti insieme? No, usciti insieme no, però è stato un'ora e mezza in trasmissione, un uomo meraviglioso. Veramente ho capito tutto. Carisma totale. Carisma, disponibilità, allegria, non tirarsela. È veramente, è uno di quegli esempi in cui da un incontro così a distanza di anni fuori dal campo, capisci un po' della grandezza e della personalità di e quest'uomo. E lui è sempre stato così, fin dall'inizio, sì, fin dalle sì. origini. Solo che io 20 anni fa, non è 25 anni fa, non è facevo giornalista. È bello perché loro annuiscono ma non possono parlare, è bellissima, è una forma diciamo di... Però voi fate sì o no con la... Ok, siete d'accordo con Gullit? D'accordo. No, perché dici di no? È brutto questo episodio? Vabbè, no, hanno detto sì tutti e quattro. Che abbiamo? Allora, abbiamo Ciccio Graziani, qui voglio domandare quanti arbitri ha abbracciato. Qualcuno l'ho abbracciato anch'io. Sì? Beh sì, come no, Michelotti. Michelotti? Cosa ti ha detto? Che fai, giù le mani? Casarin. Agnolin, anche se non mi rimaneva simpatico, però lo ritenevo assolutamente uno dei più bravi. Sì? Ma poi chi c'era? Chi era l'altro? C'era anche qualcun altro. Agnolin, insomma, che ti ha detto Ciccio non abbracciarmi perché sennò ti faccio un culo così, come in quella famosa foto di Juventus Perugia. Quello è vero, ma devo dire che con Agnolin una volta ci siamo mandati a quel paese 4 volte, 2 volte lui e 2 volte io. Io ero convinto, straconvinto che mi dava almeno 2 giorni di squalifica. Perché abbiamo. Diciamo che ho perso un pochino più io la testa rispetto a lui, ma lui non ci stava a stare sotto. E invece da uomini, da persone serie, quello che ci siamo detti in quel frangente, lui non lo scrisse, e la domenica dopo sono scesi in campo giocando. Grandi arbitri sono questi. E la prima volta che l'ho rincontrato. E la prima volta che l'ho rincontrato, gli ho dato una stretta di mano fortissima, come per dire. Non sei solo un grande arbitro, ma sei anche un grande uomo. Comunque posso dirti, la verità secondo me è che ci sono questi benedetti, maledetti social network che cambiano tutto. Io li amo, li frequento. Ma questo cambia tutto, perché tu capisci, con un'immagine come quella, 15 anni fa, sarebbe rimasta semmai come una curiosità. Oggi invece i social network, a caccia di click, a caccia di condivisioni, a caccia di like... fanno sì che queste cose vengano rilanciate al punto che ne parliamo. Io non rinnego, ieri sera ne abbiamo parlato per 5 minuti di questa storia di Buffon, perché ovviamente se ne parla tutti, ne parlano tutti, ne parla il mattino, ne parla tutto sport. È ovvio che è quasi impossibile, anzi ci siamo mangiati, perché poi come sempre andiamo lunghissimi. C'era anche la cosa di Pjanic che era decollata meno, no? Questa foto nella quale si vede in questo casino dello spogliatoio della Juve, c'è una maglia della Lazio che sta per terra e qualcuno ha pensato che Pjanic la stessa calpestanza, mi sembra. Però queste cose qui 10 anni fa, 15 anni fa, non erano rilevanti, non rilevavano, non facevano notizie. No. Oggi diventano, grazie a questo magnifico democratico, se vogliamo, ventilatore social network, però diventano una roba, secondo me, esagerata. Diventano qualcosa che, ripeto, 15 anni fa non era una notizia. Che secondo me deforma anche la realtà. Poi possono darci tutti i frocioni juventini che siete, ma accettiamo pure questo. Ma figuriamoci. Senti, Ciccio, ieri sera Ventura ha detto a Pardo a Tiki-Taka che andrà a parlare con Balotelli in Francia. Lo rivedi nel giro della nazionale o no? Mi sembra. No, io credo che Balotelli vada comunque sempre monitorato, perché calcisticamente, tecnicamente è un giocatore da nazionale, però non mi sembra logico né giusto che un allenatore vada a Nizza per parlare con lui, per fargli capire alcune cose, per tenergli... lo trovo riduttivo da parte del commissario tecnico. Io chiamo i giocatori che ritengo bravi e meritevoli della maglia azzurra, sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista comportamentale, ma io non devo dire niente a nessuno, devono loro capire che devono comportarsi bene sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista proprio comportamentale. Certo. Sei d'accordo, Pierluigi? È una diminuzione, allora, questa di... No, secondo me non è una diminuzione, nel senso che poi tutto ciò che è razionale è reale, tutto ciò che è reale è razionale, quindi alla fine se c'è l'esigenza di recuperare il talento che comunque esiste, cristallino, di Balotelli, e se questo talento però per essere recuperato ha bisogno di una sorta di tutoring o di chiarimento o di patti chiari, amicizia lunga, benissimo prendere la macchina da Genova, dove comunque credo Ventura abbia ancora una casa, e andare a Nizza. Quindi non c'è veramente niente di male, secondo me. Non... dal punto di vista del principio Ciccio ha ragione, nel senso che è chiaro che è un tipo di trattamento, un tipo di attenzione che può sembrare un po' speciale rispetto ad altri giocatori, anche se poi in realtà quotidianità della vita del commissario tecnico. Sappiamo che l'aspetto pubbliche relazioni, l'aspetto andare a fare visita alle società, andare a vedere le partite, cioè, questo fa parte dei compiti, perché poi in realtà i giorni di lavoro veri e propri con il gruppo della nazionale in un anno sono pochi, certo. E quindi in tutto il resto dell'anno bisogna costruire le attività necessarie per poter poi far bene. Senti, c'è un altro giocatore che divide molto ed è una voce di oggi molto interessante di Montella su Niang. Ci ha provato, è arrivato a un certo punto e che veramente eravamo tutti strafelici, compresi i ragazzi, dei risultati ottenuti, ma non parlo sui quelli tecnici. E è arrivato a un certo punto, si è fermato. Ora perché si sia fermato e si sia un po' regredito, un po' faccio finta di non saperlo, un po' non lo posso dire, non me lo voglio dire, però è un dato di fatto. Però è un ragazzo estremamente sensibile, è un ragazzo estremamente nella norma delle cose, non ha mai sforato. Abbastanza forte curioso, questa dichiarazione forte. Non l'ha convocato per la partita con la Juventus e verrà ceduto Niang. Allora, primo anno, totale. Appena arrivato, 17 anni, preso alla guida senza patente. No, ma guardate che sono Traoré. L'anno scorso fuori tutta la stagione per un incidente automobilistico, solita fuoriserie devastata, e quest'anno altre voci che circolano. Morale, in Milan si disfa di un giocatore su cui aveva fatto conto, cioè Niang. Sì, vai Ciccio. No, è un grande dispiacere, anche perché anche qui parliamo di un talento che tecnicamente a me mi piace da morire. Anche tra l'altro quest'anno stava facendo cose eccezionali. Quando parte palla a piede che si punta, si salta quasi sempre, ma poi si sacrificava molto anche in fase difensiva. Sembrava davvero che con Montella avesse trovato l'equilibrio giusto per arrivare a certi livelli. Da queste due parole, due chiacchiere di Vincenzo, si capisce che non vuole dire tutta la verità, ma noi l'abbiamo capita. Questo è un ragazzo che hanno tentato di fargli capire tante cose, ma vedono che non riesce a comprendere, allora la cosa migliore è disfarsene. Dispiace per neanche, ma è un'ulteriore occasione persa per poter arrivare a giocare ad altissimi livelli con quelle capacità tecniche. Però nella diciamo storica diplomazia del mondo del calcio, l'azione di Montella non l'hai sentite molte volte, nel questo, senso che lui dice non posso dire alcune cose, però di fatto le dice e fa pensare le peggio cose, come diciamo a Roma, no? E quindi francamente insomma tanta roba. Allora, un ultimo tema su cui voglio coinvolgere Ciccio Graziani. Pierluigi Pardo naturalmente resta con me, siamo in attesa di Ruud Gullit, poi faremo magari anche un cambio della guardia qui tra i rappresentanti in studio del Master. Sì, sì, salutiamo sono i Bee Gees e accogliamo chi c'è fuori, gli Spandau Ballet. Ci sono anche le Spice Girls, Posh Spice con il cappotto rosso. Allora, l'ultimo argomento, Allegri, questa benedizione pastorale ricevuta anche dal suo nemico Arrigo Sacchi, che a parte le battute, però che a Sacchi piaccia questa svolta, ammesso che sia offensiva. Svolta, insomma, questo è abbastanza normale, ma questo dimostra anche la grande onestà intellettuale di Arrigo Sacchi, che non è certamente, come del resto neanche Allegri, uno che giudica per simpatia o per antipatia, giudica quello che vede, ha un'idea di calcio molto sua, cioè molto forte, molto precisa, quella filosofia di gioco gli piace e il resto gli fa schifo. Quindi da questo punto di vista è sicuramente un integralista dal punto di vista della filosofia del gioco, però qui dimostra la sua onestà intellettuale. È chiaro che gli non può che piacergli una svolta di questo tipo. Sì, ammesso che sia svolta, che sia rivoluzione. Vabbè, di gennaio, ne abbiamo un'alternativa parlato ieri con Crosetti, Ciccio, oggi c'è il nostro amico Mondonico che si è per protesta si è chiuso nell'orto e non vuole più uscire. Abbiamo provato a chiamarlo. Come nell'orto? No, si è chiuso nell'orto. Per protesta per Allegri? No, per protesta nei confronti di questo titolo. La tendenza della Gazzetta, la tendenza appare chiara. Basta Catenacci, largo ai gol, la grande Europa è più vicina. Tutti all'attacco, Ciccio. È come al solito, noi esageriamo in un senso e nell'altro. L'equilibrio è sempre la miglior cosa. Giustamente l'allenatore ha ritenuto opportuno in una partita come quella di domenica mettere in campo tutto il suo grandissimo potenziale a disposizione, a dispetto magari di qualche equilibrio tattico, ma poi abbiamo visto che con l'applicazione, con intelligenza, con la voglia di mettersi anche in discussione su alcune cose, dei calciatori hanno fatto cose che prima non le vedevamo, tranne Mandžukić che lo fa sempre, lo fa spesso lui nel suo modo di giocare, di sacrificarsi anche in non possesso di palla, ma abbiamo visto Dybala, abbiamo visto Higuain rincorrere la gente, e questo è un segnale molto positivo. Però io ho l'impressione che questo tipo di assetto tattico lo riproporrà pochissime volte, perché non è nella logica, l'equilibrio è la cosa migliore, farli giocare tutti assieme una partita ci può stare, andare avanti e continuare con quella situazione forse diventa pericoloso per la Juventus, secondo me. Io sono della stessa opinione, come secondo me è stato uno sberleffo toscanissimo di Allegri a tutte le critiche che ha ricevuto la Juventus, che come ha detto lo stesso Allegri ha vinto già il campionato delle critiche pur essendo prima in classifica. Ciccio, grazie. Dopo la sconfitta di Firenze è come se gli avessi detto adesso datemi una risposta, adesso vi faccio giocare e poi vediamo che risposte mi date, ecco, questo è un po' il senso della provocazione, un'amica fesso ha scelto una squadra che contro le grandi, soprattutto in trasferta, è particolarmente morbida o femmina, come piaceva dire a qualcuno, come la Lazio. Ci fermiamo un attimo, grazie Ciccio Graziani. Pierluigi Pardo rimane qui con me. Siamo in attesa di Rugby. Mi spiace che tutti siano persi i BG's che sono qui, però vienici a trovare. Adesso fanno. Escono i BG's, entrano le Spice. Vai, mi faccio bello allora. Tutti convocati. Sono Enrico Ruggeri. Anche questa settimana grandi storie a Il Falco e il Gabbiano. Joe Jackson, il padre padrone dei Jackson 5 e di Michael Jackson. Dalla musica classica al pop, dal pop al glam, la controversa storia del grande pianista Liberace. Sicuramente la più grande serial killer della storia, la contessa sanguinaria Elizabeth Bathory. Un allenatore del tutto particolare, testimone e attore di un altro calcio, Oronzo Pugliese. E poi una leggenda del West attraverso una storia che vi stupirà, Billy the Kid. Tutti i giorni alle 15.30, naturalmente, su Radio 24, Il Falco e il Gabbiano. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Convocati. Allora, saluto anche Edoardo Lavezzari, non Lavezzi. Sì, qua più che le Spice Girls abbiamo fatto Woodstock, che sono 14.000 persone dentro lo studio. C'è un uomo che si è messo la giacca, perché non gli hanno detto che la radio non si vede, no? Quindi si è messo comunque la giacca. Le ragazze sono splendide. Ma anche io sono sempre in giacca e cravatta, non dici mai. Sì, chiaro. Sempre in giacca e cravatta. Perfettamente sbarbato. Con noi ragazzi del Master, ragazzi che stanno andando tra l'altro buca a Nicoletti ufficiale, no? Da circa 40 minuti. No, l'ho visto passare, diciamo, prima Gianluca. Sì, la lezione era alle 2, ma un po' adirato. Hanno fatto filone, come dice a Napoli De Luca. E stiamo aspettando filone. Stiamo aspettando Ruud Gullit più tardi. Enrico, provincia di Alessandria, buongiorno. Buongiorno a voi. Ovviamente buongiorno. Ci sono anche convocati, 800 24 00 24, come tutti i giorni. Dica Enrico. Un pensiero rapido riguardante il discorso dell'arbitro, dell'abbraccio di Buffon, eccetera. A mio figlio a Natale abbiamo regalato il gioco, credo, più famoso del calcio, per una console più famosa, cui peraltro dà la voce Pierluigi Pardo, esattamente. Mi ha colpito, ma è una considerazione mia personale, non vuole giudicare nessuno, il fatto che ogni intervento arbitrale su questa famosa console, ogni del gioco, viene contestato dai giocatori. Temevo dal tragonista, perché invece il tragonista è bravissimo. I giocatori contestano, è vero. Protestano. È vero. Protestano sempre, qualsiasi intervento faccia l'arbitro, i giocatori protestano. È molto realistico. Decisamente molto molto realistico. Io proporrei ai produttori di sostituire queste proteste con degli abbracci in stile... Non è più realistico, però. Ragazzi, dovete decidere che potete fare, insomma. No, ma io ti dico, credo che sinceramente allora. L'aspetto polemica fa parte del calcio. Io non mi piace il buonismo, per cui tutti buoni. È giusto la polemica, è giusto secondo me anche che qualche volta si esageri, che ci siano le moviole. Non sono uno contrario da questo punto di vista, anche perché sennò di che parleremmo. l'importante è capire il limite, no? Cioè, la polemica di Buffon con l'arbitro per me è assurda, anche perché ti posso dire, se Buffon avesse un rapporto speciale, al di là che ieri poi Cesare ci ha raccontato i numeri di tagliamento con la Juve che sono abbastanza drammatici negli ultimi anni, sono abbastanza negativi, no, ma dire, anche ammesso che nel calcio di oggi uno come Buffon smaliziato, se ha qualcosa tra virgolette da nascondere o da dire a tagliamento, lo abbraccia davanti a 40.000 persone, a 20 telecamere, ma no, quindi esiste. È ovvio anche che la polemica non esiste. Io diverse volte ho visto Buffon abbracciare gli arbitri, no, Buffon abbraccia tutti, e soprattutto, è vero. Soprattutto gli avversari, assolutamente. Ma poi anche per esempio Cesare ci ha fatto vedere una scena molto simile, di molto bella, di Abate che alla fine di a Napoli va e abbraccia l'arbitro, insomma, e c'è Donnarumma con Rizzoli oggi pubblicato su Tutto Sport. Però ripeto, il tema vero sono i social, questi ragazzi studiano comunicazione, la comunicazione ha cambiato tutto, i social network hanno cambiato tutto nella comunicazione, i social sono ovviamente uno strumento molto stimolante, molto bello, molto democratico, che offre a tutti la possibilità di partecipare in maniera attiva, quindi è proprio dal punto di vista della tecnica della comunicazione una cosa meravigliosa, dirompente, straordinaria, che va governata come tutte le cose. Io adesso ho ripreso la prima pagina del Mattino, il richiamino, prima pagina ieri del Mattino, il pezzo è un pezzo equilibrato, onesto, che dice comunque che ha grande rispetto della figura di Buffon. Però, e nell'occhiello, adesso te lo trovo, c'è il riferimento al fatto che infuria la polemica sui social network, cioè anche i media tradizionali, ovviamente in questo caso quello di Napoli attacca e Tutto Sport oggi difende, certo. Però anche i media tradizionali, o i media come bisognerebbe dire, tradizionali, cascano, ecco, in questo... Vanno dietro a questa roba qui, perché è impossibile non parlarne, no? Forse sarebbe possibile, però dovremmo fermarci tutti contemporaneamente. E comunque i social network oggi, onestamente, fermano, con tutto il rispetto per i quotidiani, sono più forti da un punto di vista di rumore anche noi, e di anche chiasso, noi no? Da vari punti di vista, in alcune occasioni abbiamo avuto problemi con il vasto popolo dei social network, certo. E ci capita, tuttora ci capiterà ancora. Enrico, buongiorno. Un altro Enrico, ma da Monza. Sì, buongiorno, grazie della convocazione. Mi volevo riagganciare al discorso che stava facendo adesso il signor Pardo per una piccola tra virgolette critica, nel senso che trovo che siate una delle poche trasmissioni che parlate con garbo e divertimento di sport, calcio in generale, e mi dispiace vedere che non è la prima volta che tra virgolette sprecate del tempo a parlare di casi che non esistono, come l'abbraccio di Buffon, che credo che non interessi a nessuno, o di cose trite e ritrite come il buon Balotelli che viene fischiato, insultato, usiamo il termine che meglio credete voi. Beh, perché comunque credo che a tanti oramai questi argomenti escano dalle orecchie. Ma non so se escono dalle orecchie, allora, basta guardare i giornali. Su Balotelli il concetto era, noi ieri sera avevamo ospite Gullit, che è stato uno dei calciatori più attivi, che adesso avremo in radio, nella lotta contro il razzismo, e Balotelli ha denunciato un episodio di razzismo l'altro giorno. E poi il commissario tecnico della nazionale, non fargli una domanda su Balotelli, secondo me era un errore giornalisticamente. Sulla vicenda, è vero che delle volte, ma è quello che stavo dicendo prima, è vero che delle volte andiamo dietro a dei casi che non sono casi. Cioè, per me quello di Buffon Tagliavento non è un caso, ma l'ho anche detto anche da conduttore, l'ho detto e lo ribadisco in questo momento qui, dove sono magari più opinionista. Per me non è un caso, però nel momento nel quale questa cosa qui comunque diventa dirompente, e c'è, non puoi non parlarne. Ne abbiamo parlato, credo, in maniera equilibrata, non è corretto, con punti di vista ovviamente diversi, perché insomma Auriemma, che pure non è che si sia indignato per questa cosa qui, però ci ha un po' giocato, ma legittimamente dal suo punto di vista, no? Ha detto: mi auguro che Buffon vada ad abbracciare l'arbitro la prossima volta che la Juve perderà una partita. Ci sta, è una battuta che ci ma può sì. stare, no? E poi abbiamo sentito Cesari, abbiamo sentito Rudd, voglio dire, è impossibile non parlarne, secondo me. Che succede? Non lo so. Filippo Mariarici, buongiorno. Buon pomeriggio, Come va? Si abbracciano gli arbitri in Spagna, sì? Ogni tanto sì, secondo me sì. Non ci ho fatto così caso. Ecco, forse proprio questo, non ci fa esatto, molto caso. Esatto. Questa è la chiave, mi sa. Ma io porrei un limite di menzioni. Sopra le 10.000 menzioni sui social se ne può parlare. Sotto le 10.000 no. Guarda, c'è, una, c'è una, un ascoltatore che ci scrive: queste sono le opportunità, lo volete capire o no? Vi brucia il culo, lo dice, che ci sia un mondo parallelo del web alternativo a quello delle bagasce intellettuali. Allora, premesso che io sono molto attivo sul web, ma probabilmente sono anche una bagascia intellettuale, cioè racchiudo le due cose insieme. Non, a me personalmente non brucia. Io penso, medaglia al merito, bagascia intellettuale è una medaglia al merito. Io, a me i social mi piacciono da morire, mi piacciono da morire, e penso che si veda perché ci sto sempre sopra. Credo che ci siano delle voci. Ma no, a me la cosa che non è che fa paura, che dispiace un po', è vedere che magari uno fa per 20 anni, per 30 anni lo stesso lavoro, poi magari gli esce una frase sbagliata in un contesto, e succede per giorni il Maracanà, inteso come diciamo noi a Roma. Cioè, c'è un casino di proporzioni bibliche, e in quei giorni lì tutto quello che tu hai fatto in 30 anni di carriera, in 50 anni di carriera, sparisce, perché tu sei quella frase che viene utilizzata per fare click e per beccare i like, che oggi sono una forma di economia, perché è inutile che ci giriamo attorno. Oggi anche le aziende vanno sui blog, ma vanno anche dalle persone, dagli opinion leader, e vedono quanti mi piace ci sono. Cioè, non è che... Quindi il meccanismo è questo. È un po' scoperto come meccanismo, non c'è niente di male, è il mercato. Però, insomma, io credo che le persone debbano essere valutate per quello che fanno in una carriera. Cioè, anche in questo caso, l'abbraccio di Buffon. Noi vogliamo giudicare Buffon e il rapporto di Buffon con Tagliamento da questo abbraccio qui? Non lo so, mi sembra una follia, no? Lo giudichiamo esclusivamente attraverso click e mica click. Allora, traffico, Filippo Maria Ricci, stai lì. Tutti convocati. Ti piacerebbe entrare davvero nella caverna di Platone? Radio 24 con Alessandro Milan e Leonardo Manera ti aspettano domenica 5 febbraio al Teatro Manzoni di Milano per ridere e divertirsi con l'attualità. Platone, la caverna dell'informazione, il lato comico dell'attualità. Tutte le info su radio24.it e teatromanzoni.it. Tutti convocati. Quando sono venuto in Italia non era ancora qualcuno, no? Calcisticamente avevo vinto poco, e grazie all'Italia, anche al livello calcistico in Italia, sono cresciuto abbastanza. Rod Gunit di allora, Rod Gunit che giocava anche da libero, in origine era stato una mezzala, poi una punta, poi a seconda delle esigenze giocava da libero, però il suo posto migliore era partire dietro la prima punta o la seconda punta ed inserirsi grazie alla sua grande forza, alla sua grande velocità, alla sua potenza di tiro. Poi non dimentichiamo che quando arrivava in area era di testa formidabile. La mia filosofia è anche di sempre credere nel positivo e non sempre nel negativo, di non pensare soltanto al calcio, ma anche pensare all'altra cosa, e sicuramente di avere intorno di te gente positiva, perché ci sono tante persone che ti vogliono soltanto male, non te lo dicono, ma si vede nella faccia, si vede negli occhi, e devi cacciarla via, devi avere gente positiva, e naturalmente anche la famiglia è molto importante. Palla ancora per Mancini, ed ecco Gullit, destro di Gullit, la Sampdoria è in vantaggio, è proprio Gullit che punisce la sua ex squadra. Gullit, hai atteso molto a segnare il tuo primo gol qui al Ferrari di fronte ai tuoi tifosi, però non è stato un gol da poco. No, è stato un gol bellissimo. Beh, ero molto contento, soprattutto di fare un gol vincente, molto bello. A prescindere dal tifo e dalle bandiere, uno dei più grandi giocatori di sempre, mio idolo personale qui vicino a me, a Pierluigi Pardo, a Dario Ricci che ci ha raggiunto. Ciao Rod Gullit. Ciao, è un piacere essere qua. A che intervista sei arrivato? Beh, sei in transagonistica da tre giorni. Sì, sto girando a tutto Milano. Però mi piace, la gente sono molto gentile, sono molto aperto, so. No, ma tu sei un mito, cioè non è che la gente è gentile in assoluto. Io sono ottimista con te pure sul per genere farlo umano. Salire su, cioè, e fa la foto e fa il selfie, sì, sono così, però la gente sono molto onesta, hanno la loro ammirazione per gente che hanno fatto qualcosa bene nella loro vita, e per quello sono contento qua, e tutto va andando, sta andando bene. Anche perché hai scritto questo libro di cui tra poco parleremo, sì. Salutando Filippo Maria Ricci, voi in Spagna non avete visto Ruud Gullit, avete solo beccato, avete visto solo alzare la Champions League. Beh, insomma, una partita più che sufficiente, no? Per smontare il Barcellona, insomma, mi sembra che sia più che sufficiente, lo ricordano bene qua in Spagna, ecco. Sì. Di questi tempi probabilmente giocherebbe da quelle parti. Io ringrazio Filippo Maria Ricci e andiamo avanti con Ruud, che ieri sera è stato ospite, sì, di Pierluigi Pardo. Ti sei divertito? Stato divertendo, sì. Noi da matti. Ma poi la quantità di messaggi, poi tu non l'hai vista, sono arrivati durante la puntata, anche da parte degli stessi opinionisti. C'è chi ti vuole candidare per la presidenza del Consiglio italiano, chi direttamente per la presidenza della Repubblica. Ma lo sai, politica è un altro modo, no? Devi dire una cosa, però pensi un altro. Ma tu hai la consapevolezza di essere un uomo speciale? No. A parte tutto, no. Io credo che... Io non so come la gente mi vede, no? So soltanto che faccio sbagli nella vita, prova anche di imparare, no? Degli sbagli che faccio. Faccio sempre errori. Questo anche fa parte della vita, no? E quando le cose vanno sempre bene nella vita, no? Tu non ti accorgi che cosa, certo, che cosa passa, che cosa succede nel torno di te. Invece, quando ci sono cose brutte nella tua vita, lì comincia l'avventura. Perché lì devi alzarti, devi improvvisare, devi lavorare per venire fuori. Dopo questo tempo che è venuto fuori, del brutto tempo, ti guarda in faccia e dice... Sì, ce l'ho fatto. E questo fa parte della vita. So, i brutti momenti della vita mi hanno aiutato di essere l'uomo che sono adesso. Non perfetto, però... Però Ruud, tu sei sempre stato così, anche da calciatore. Guarda, io prima immagine che ho di te, una vecchissima ripresa a servizio di Mediaset, quando eri appena passato al Milan... E con le famose treccine suonavi una chitarra e cantavi il reggae. Non so se ti ricordi questo. Sì, mi ricordo. E io vedo la bella cosa della vita. Io mi sento molto fortunato di avere questa vita. Dio mi ha dato questo talento. Io stesso ho dovuto lavorare molto per esprimersi al massimo. Però ci sono anche gente in questa avventura che mi ha aiutato molto. So, io mi sono accorto che questa fortuna e voglio soltanto esprimermi, e io sono contento quando la gente va a casa con un sorriso, certo, che hai contribuito alla loro fortuna in quel momento. So, direi che... Ma anche così, che quando non tutto va come tu vuoi, no? Ho spiegato anche nel Milan, dopo un certo momento, il Milan non aveva più, non credeva più in me. Pensavano che avevano un ginocchio di cristallo. Il ginocchio. So, e loro non mi facevano giocare. So, in quel momento mi stavo male. Non potevo dimostrare, non mi davano la possibilità. Dopo, quando sono andato a Sampdoria, potevo esprimere. Il ginocchio funzionava. Sì. Poi lo sapevo. Però non avevo la possibilità. So, queste sono cose male. Del male ho fatto una cosa positiva. Quando... Tu entri, vai a destra, e a destra non ne va bene, vai a sinistra. Ci sono sempre altre porte che aprono, certo, per andare. Soltanto c'è tanta gente che rimangono sempre sulla stessa strada, e quando le cose non funzionano si lamentano sempre. Sì, io sono per fortuna. No, non è questo. Tu devi chiuderla e vai a un'altra parte. Magari tu vuoi essere scrittore, ma non sono bravo scrittore. Magari devi fare altra cosa, certo, magari con computer, altra cosa. So. Per tutti quanti c'è sempre una strada. Assolutamente. Ieri... Non hai scritto un libro da vecchia gloria, però noi ci aspettavamo che ci raccontai quando scappavi dai ritiri, queste cose qua. Invece, ma lo sai, io non lo so chi ha detto questo, ma io non so mai, dal Milan non mai sono scappato dal ritiro. Quando sono scappato dal ritiro, ho fatto sempre una domanda: posso uscire? Voglio andare a cinema? Mi sembra, mi ricordo il primo giorno che ero in ritiro a Milanello. Milanello è bello, sì. Però 10 giorni in ritiro, sì, ti sparare la testa. Certo. So, dopo un certo momento ha chiesto anche a Sacchi: possiamo uscire, possiamo andare al cinema? Sacchi ha detto: guarda, uscire da Milan, anche quando vai fuori in albergo, guarda, tutti ti guidano, tutti ti vedono. Certo. Cioè, tu non puoi scappare, non è possibile in quel momento lì. So. Io non so dove viene questa storia che io sono scappato dalla ritorno, perché non è vero. Ma no, poi allora ci fermiamo due minuti e poi ripartiamo con Ruud Gullit qui con noi. Se volete, magari anche qua un paio di telefonate a. Tanto cominciano ad arrivare messaggi, mandateli. 800 24 00 24, numero verde, arriviamo subito. Tutti convocati. Il segnale orario vi è offerto da Legno Edilizia, Fiera di Verona dal 9 al 12 febbraio. Sono le 15. Questa edizione di GR24 non va in onda perché è in corso un'assemblea della redazione. Il prossimo giornale radio alle 17. Allora, puntata epocale di Tutti Convocati, Pierluigi Pardo qui in studio, Dario Ricci, ma soprattutto un'icona del calcio, della storia del calcio, come Ruud Gullit qui da noi. Ora telecronista, Ruud. Sì. Qui abbiamo uno dei principi del foro del telecronismo, come tu ben sai. Ho visto ieri, sta facendo un bel lavoro. Sì. Sì, sta facendo un bel lavoro. Sì, ieri ha fatto, ha condotto il programma a fare telecronaca, sì, c'è anche il suo campionato, e continua a parlare di statistiche. Tu sai che il Pardo continua a parlare statistiche, possesso palla, sì, non conta. Ma non è vero, certe statistiche sono ok, però ci sono queste statistiche che dicono: ok, lui ha fatto 50 passaggi. Da dove? Esatto. Da chi? E come è andato? Dietro? Esatto. E avanti? Che passaggi che fa? No, fatto? Guarda che lui, no, in effetti lui non le usa. No, anche se ci sono queste statistiche, 60% di possesso palla, però ho perso 1-0. Senti, il più forte col quale hai giocato chi è stato? O anche Van Basten, è contro Maradona. Sì, Van Basten era incredibile. Più forte Diego o Messi? Questa è una discussione che non ha senso, perché altri tempi, quando io faccio paragoni, io dico sempre: vai a guardare i video di Maradona nei tempi nostri. Lui, per far dribblare, doveva saltare un metro per evitare tutti i contrasti. Prova a buttarlo per terra. Oggi io vedo Messi dribblare, senza problema, nessuno fa i tackle, nessuno lo tocca, ogni tanto lo tocca. La protezione che hanno adesso non ce l'avevano ai nostri tempi. Sono due cose che non posso paragonare, però sono tutti e due grandi campioni. Io, mi hanno detto anche tante volte, chi è meglio, Pelé o Maradona? Io non ho visto giocare a Pelé. Sì, sì, confronti epocali. Qualche documentazione. Io ho visto soltanto Maradona, io ho giocato contro di lui, e lui è un fenomeno. E bastava. Sì. E poi quando vedremo Messi vincere con la maglia dell'Argentina praticamente da solo, ne riparliamo, Ruud. Facciamo il cameraman. Senti, visto che ti piacciono molto i paragoni, Ruud, ti volevo chiedere, c'è un giocatore io di quale non ho ti... detto no, questo. Ma lo so, io ti ho detto domanda. Questo, dicendo il contrario. Sto dicendo il contrario. C'è uno che... C'è un Gullit 2.0, faccio vedere anche la copertina del libro. Non guardare la palla, che è un titolo geniale, adesso ne parliamo. C'è uno... Che assomiglia a Gullit, uno è come faccia? No, come movimento in campo. No, non lo so, no. Ho già detto, ogni giocatore è unico, no? Ogni giocatore ha suo talenti. A me non piace paragonare gente. Hai ragione. Io, questo che vedo adesso, sono grande giocatore. Ibrahimovic è forte, mi piace come persona. Naturalmente Messi, Ronaldo, sono fenomeni incredibili. Ma la differenza è che tu e Van Basten siete stati una sorta di rivoluzione, anche fisica, nel gioco del calcio. Nessuno aveva visto ancora qui da noi gente della vostra stazza giocare a calcio in quella maniera lì, no? Cioè il giocatore tipico era Donadoni, tuo compagno sì, di squadra sì. Ancora, e voi siete stati rivoluzionari ancora, Iniesta, cioè, anche questa sì, Savi, cioè, però la fisicità nel calcio di oggi è molto più importante, no? No, la cosa che adesso è il calcio è migliorato nel fatto che devi essere più forte e devi essere più veloce. So, il calcio è molto più, siete molto più tempo, molto più ritmo della partita. E noi avevamo anche una cosa che non mi piaceva molto, che potevi tirare la palla dietro alla portiere. Ah, potevi certo. Prendere mano. Sì, sì, quando sì. È cambiato questa nuova regola, ha velocizzato. È velocizzato molto. È un altro l'altro giorno Verratti l'ha fatto di testa, ma è stato ammonito. Sì. Senti, ci spieghi questo titolo, che secondo me è geniale. Però io adesso non voglio continuare a fare un'elegia di sì, Gulli. Ma prova. Provo. Non guardare la palla, perché l'errore è focalizzarsi troppo sul pallone. Sì, appunto. Perché la gente, normalmente tutti che guardano la televisione, seguono la palla, è normale, ma ci sono anche giocatori che lo fanno. Il pericolo non è la persona con la palla, il pericolo è che la gente che si preparano per fare gol dietro di te. Sì. So, per quello che non devi sempre guardare. So, io anche nel libro scrivo tanti passaggi come la gente possono anche in televisione vedere il calcio e non soltanto seguire palla, perché tante volte si vede che qualcuno fa un sbaglio e dicono ah, ma che errore, ma l'errore non è suo, c'è magari un giocatore che un attimo ha aspettato un po' troppo, dà la palla a questa persona, certo. Sotto pressione perde palla. Senti, com'è il cervo che esce di foresta? Facci una faccia da cervo che esce di foresta. Questo chi ha fatto? Ah, Bosco. Sì. Mica male Bosco, ma lui è bravo, è molto bravo. Io ho sentito così tante storie. Mi ha detto una volta che lui era con il pullman da Sampdoria, dopo un poliziotto l'ha fermato il pullman per controllare tutti i pullman. So, lui ha guardato il poliziotto, devo dire che sei una merda. Una merda grandissima. È fantastico perché fa Bosco sì, con l'accento genovese, capito? Una cosa. Sei una merda, bellissima. Ma non c'è può controllare. No, sì. Senti, lui parlava sempre di io non sono, ma sempre io l'ho visto. Ma e lui mi piaceva, era anche un personaggio nel calcio italiano Bosco. Senti, mi piaceva molto. A proposito di allenatori, questo tu che conosci anche l'ambiente del Chelsea, ti aspettavi un Conte così e fino a te secondo te arriva fino alla fine così? Ma io spero, io anche Chelsea ho avuto anche un buon rapporto. All'inizio lui ha eredato anche in una squadra che giocava 4-3-3 per tanti anni. So, lui ha tentato di fare lo stesso cosa, soltanto che non funzionava. Ha preso David Luiz, che nessuno capiva perché. Bravo, perché lui non ha fatto molto bene. No. Non è con Brasile, né anche a Chelsea, no? Poi, anche non particolare con Paris Saint-Germain, però Conte ha pensato già che io volevo giocare con tre indietro. So, lui ha aspettato un momento giusto, che era contro Arsenal, ha preso quattro pere, mi sembra, esatto. E lì ha cambiato. So, lui ha messo proprio la sua filosofia a questa squadra, che non è molto da attacco, No. Perché più equilibrio che quando, attacco. No. More si balance gioca 5-4-1, esatto. Okay? O come dice Capello il Musone, 9-1 si gioca 9-1. Sì, è vero, ma in attacco si gioca 3-4-3. E lui ha i giocatori giusti, soprattutto in avanti e nel metà campo, che gioca alla grande per lui. So, lui, io mi ricordo le prime interviste che ha fatto sempre in televisione, quando ha fatto queste schemi ha detto sempre sì, hanno vinto 2-0, 3-0, non parlava dei gol che ha fatto, ha parlato sempre sì, sono molto contento che non abbiamo preso gol. Sei proprio italiano. Sì, c'è una marea di messaggi italiano, so. Ma però io ho imparato molto della filosofia italiana, che la difesa deve essere la cosa che tu devi cominciare da costruire, perché una casa tu non cominci dal tetto, certo. Cominci da fondamento. E il fondamento deve essere stabile, ma così tu puoi costruire. Ma questa Juve che invece ha svoltato verso lo spettacolo con tutte le stelle in campo. Sì, ma però quando hai il miglior giocatore, io posso anche fare questa cosa, ok? Poi un po' cambiare il gioco e così. Ogni tanto gioca 5-3-2, gioca 4-2-4-1. Poi un po' cambiare questa cosa. È facile quando hai buon giocatore. Quando tu giochi per non retrocedere, non fai, non fai questa così, cosa. Non giochi così. Dipende naturalmente dai giocatori che hai. Sì, comunque, intelligenza anche dei giocatori, certo, che ma hai. Poi, ma poi però, dicevi tu anche con Sacchi, gol ne prendevate pochini, con quella difesa. Avevamo, che tutte le grandi squadre tutti gli sport nascono dalla difesa. Appunto. E quando tu dici non guardare la palla, cioè ad esempio nel basket, chi dice guardate cosa succede sul lato debole, quello dove non c'è appunto, la palla. Appunto, e loro, Billy Costa Curta, Barresi, Maldini e Tassotti erano dei fenomeni. Perché Filippo Garino, per noi era più facile di attaccare perché loro erano così tante forte. Certo. Senti Ruud, Filippo Garino? La Filippo Garino anche, perché, ma io penso che ha fatto due stagioni, penso, una o due stagioni con noi. Sentiamo, e dopo è venuto bene. Però Filippo, bravo. Filippo, sentiamo Filippo, bravo. Hai capito Filippo? Sentiamo. Come sentiamola qua? Oui, Belfier, come stai? Io sto bene, Pinocchio, tu? Pinocchio tu. Perché Pinocchio? Perché lui mi fa un messaggio ieri. Sì, ho voluto venire per per il tuo libro, però non ho potuto venire perché altri impegno. Pinocchio, chi sei? Pinocchio! Sentiamo la giustificazione che ci sarà sicuramente. No, giustificazione, è mancata la comunicazione, l'ho saputo alle 18:30, porca miseria. No, Filippo, come stai? Io so che stai facendo un gran lavoro con i giovani. Sì, tu da tanti devi anni. Essere particolarmente orgoglioso di avere questi giovani tutti nella prima squadra. Questo fa parte del tuo lavoro. Beh, sì, fa parte del lavoro nostro, del settore giovanile, siamo contenti, insomma. Ecco, poi, complimenti anche a questo departo, perché tutti guardano sempre i risultati adesso con il Milan, però quelli che ascoltano devono anche sapere che Filippo sta facendo un gran lavoro con questa Milan. Beh, ma guarda che noi lo diciamo sempre, il nostro amico, il mio amico Filippo. Sì, ma Filippo sta bene, lui era l'unico che parlava inglese. Potevo soltanto comunicare con lui, il resto era, non lo so che cosa parlavano, però non inglese. Ma ci hai messo a imparare italiano così bene? No, all'inizio era difficile anche per me, però gli italiani sono così, che tu dici due parole in italiano sono contenti. E io, senti, con De Burro già, non è andata no, bene. No, ma così, io però. Ho capito già una cosa, che tu con le mani puoi dire tanta cosa. Scusate ragazzi, Filippo, mi fermo tutti. La sua forza, scusate, la sua forza è perché si è presentato con una chitarra con tre corde. Sì, tre corde, era in bravo. Io ho già detto a Filippo, ho detto guarda, io avevo confidenza un po' troppo, ok? Ogni tanto puoi esagerare. E questo vuol dire esagerare. Però in campo non mi fregava niente con chi giocavo. Scusate, ma c'è Minoli, vieni, facciamo un faccia a faccia. Era tutto uguale, però. Senti, c'è una cosa importante perché ci scrivono: ciao a tutti, sono Davide, ho 28 anni. Ho 28 anni che ho nel portafoglio il biglietto della finale di Barcellona. Sì. Sono in ufficio a 500 metri di Radio 24. Se lo porto in portineria, me lo fate autografare il tulipano nero e passa a riprenderlo anche domani? Naturalmente, però devi correre. 500 metri perché ce l'ho altri appuntamenti. Chiaro, deve essere veloce, dai, il mio libro. E dopo anche io. Lo segno quando hai anche comprato il libro. Sì, esatto. Chi? Filippo? No, questo ragazzo. Tutti quanti, tutti quanti. Vabbè, tanto se non ce l'ha, allora, Filippo, l'altro giorno Van Basten ha detto il mio rimpianto, che ho smesso 3-4 anni prima, se no la favola del Barcellona di Guardiola diventava una storiella piccola. Non lo so se l'ho detto davvero, non lo so, però quello era un Milan straordinario con Ruud, con Marco, con Frank, quindi credo che poi con il se e con il ma non si può fare nulla. Io credo che quello che è stato fatto da questo gruppo di giocatori, il gruppo di uomini, mi piace sottolinearlo prima ancora che di giocatori, sia stato qualcosa di grandioso. Loro hanno portato molto dal punto di vista del talento, della capacità di vivere e di giocare un certo tipo di calcio. Credo che qui abbiano trovato una professionalità da parte di un gruppo di giocatori importante, ecco. però sono stati momenti, credo, indimenticabili per tutti noi. Sì, ma noi olandesi che venivamo in Italia abbiamo imparato anche molto da voi, perché la professionalità che avete, noi in Olanda eravamo un po' più sciolto, troppo sciolto. So, per quel motivo eravamo anche, abbiamo imparato molto come sì. professionista, anche come interpretare il calcio. Il calcio non è soltanto un gioco, no? Ogni tanto devi anche lavorare molto per migliorare. Questi italiani hanno aiutato molto, perché erano tutti bravi. E con Arrigo, insomma, voglio dire, abbiamo avuto un buon maestro, un bel osso. Sì, un bel osso, era un bel osso. Se tu ti ricordi ancora quando lui era nel corridoio alle 11 di notte, che tutti chiudavano dentro, spegnavano la luce, sta arrivando, ragazzi, spegni la luce. Dormiamo tutti. Grazie Phil, sentiamo presto. Ciao Filippo. Ti leggo un po' di messaggi. Io una sera ero al cinema a Milano, pochi secondi dopo l'inizio del film si è visto un'ombra inconfondibile entrare e sedersi in prima fila, era Gullit. A proposito di Gullit, un altro ci dice, mi ricordo un'intervista al cinema, sei andato al cinema? Era quella sera là, Intervista con Bruno Longhi, c'era il sole e avevate gli occhiali tutti e due. Dopo la prima domanda tu, Rud, ti sei tolto gli occhiali e lui ti ha detto tienili pure, ma lui tu gli hai detto questione di educazione. Che cosa? Qualcuno da sole? Qualcuno che. No, Bruno Longhi, intervista, ti sei tolto gli occhiali da sole. A me? Sì. No, tu li hai tolti. Tu li hai tolti. Ah, io hai detto sì, come forma di educazione. Ah, sì. Tifosissimi dell'Inter e della Juve che ti ringraziano, che ti amano. C'è Gianluca da Torino che nell'87 aveva 13 anni, ha fatto il primo abbonamento, aveva il cappellino con le trecce. Ma io sono uno dei primi. Stato uno dei primi a dettare la moda, il look. Ma no? la cosa è che a me piace il calcio, a me piace esprimere. Io non so come la gente mi vedono. Io so soltanto che la gente in Italia mi hanno abbracciato subito, mi hanno dato una sensazione di essere benvenuti in Italia e io ho voluto soltanto ripagarla con il mio amore di giocare. Io devo molto all'Italia. Mi ha dato la felicità, mi ha dato la professionalità e di godere anche la vita, perché il tempo che in Italia non puoi descrivere così semplice, perché è stata un'avventura incredibile dove abbiamo vinto tante coppe, ma soprattutto abbiamo lasciato un segno nel calcio in quel momento in Italia, che in quel momento non ti accorgi. Uh-huh. E magari è meglio che non ti accorgi, perché sennò hai il puzzo sotto il naso. Non vuoi avere questa cosa, devi sempre stare con i piedi per terra e soltanto godere. Però la anche vita. Con Luke tu sei uno che ha cambiato la generazione. Poi sono arrivate le creste. Sì, ma quando io vedo me stesso adesso, ho già detto 2 anni fa, quando adesso vedo queste fotografie mie, sembra un uomo di porno, no? No, non è vero. No, è brutto, con i baffi, questo cappello. Non però ti piace quei baffi? No, i baffi era brutto. Cioè, il cappello era abbastanza, però i baffi, dopo un certo momento, era nello spogliatoio del Milan e ho detto, ma scusa, questo baffi non è anche bello, no? Però era troppo... Ma perché l'attore porno? No, perché è brutto. Dopo quando ho tolto i baffi, mi sembrava un po' meglio. Adesso era contento. Reckard mi ha guardato e mi cominciava a ridere. Ma che senza baffi. Ce l'aveva anche lui. Esatto. Dopo certamente ha tolto anche lui. Sì, davvero moda. Senti, ma perché De Boer non ha funzionato qui? Non lo so che no. Io non c'ero qua. Conosci, la cosa che abbiamo sentito da Olanda è stato che l'Inter ha cercato De Boer perché voleva fare lo stesso gioco che faceva l'Ajax. Lui ha fatto questa cosa soltanto che aveva bisogno un po' di più tempo di adattarsi. Sì. Eppure in quel periodo è stato licenziato perché i risultati non è venuto. Perché l'Italia è diversa. L'Italia è un paese che tu devi fare bene ogni settimana. Sì, subito. È così, soltanto risultati. Quando vinci hai sempre ragione. Per quel motivo non ha avuto questa pazienza con lui. E così hanno licenziato. Naturalmente mi dispiace per lui. Spero che la trova ancora lavoro e esperienza. Perché come allenatore una cosa è sicuro. Che viene licenziato. Prima o poi. Però abbiamo sentito Filippo Galli. Ma tu sei d'accordo con questa frase di Marco Van Basten? Di che cosa? Il mio grande rimpianto: non mi fossi ritirato, avremmo dominato per altri 3-4 anni e il ciclo del Barcellona di Messi sarebbe stato poca cosa. Non si sa mai. Ma questa è l'opinione di Marco, perché guarda, è successo quello che è successo. L'unica cosa che mi dispiace è che ha avuto questa fortuna, che ha dovuto smettere. Questo è stato un dispiacere molto, non soltanto per Marco, ma per tutti i milanisti, ma anche per i suoi compagni, sì. Perché ti sente male, perché lui nel momento più che hai più esperienza, puoi anche usare tua esperienza, è 27 anni, sì, e lui sì. Dovete smettere quell'anno lì, che questo è brutto, è una cosa che mi fa, sì, sì, mi fa male nel cuore. Beh sì, anche perché insomma era veramente un'altra cosa, eh? Sì. Un altro pianeta, sì. Altro pianeta, sì, sì, sì, sì. A tutto il resto. Vabbè, c'è una domanda che fa Silvia, ma non è radiofonica. Vabbè, non per, è radiofonica. Per rimanersi su quel tema di prima. E poi è pieno di gente, non ti perdonerò mai per la partita Milan-Steaua 4-0. Perché non mi perdono? Perché ne so, sarò tifoso dello Steaua. Rude dei 20 piaccioni. Rude, c'è uno che ha chiamato la squadra, tifoso della Samp, Rude dei 20 piaccioni. E poi insomma, messaggi di tutti i tipi. Ti chiedono anche il pronostico di Juve-Milan di domani sera. No, ma che, so. Guarda, sono ancora del Milan. Spero che il Milan vada bene. Vai a vedere. Sono molto... Però ti sta piacendo? No, perché domani devo andare via. Ce l'ho anche altre cose da fare. Ma dove vivi durante l'anno? Amsterdam. Adesso? Amsterdam. Okay, Amsterdam. È bella città. Amsterdam. Eh beh, vicina. Vienici a trovare più spesso. Sì, un'ora veniamo e mezza. Veniamo noi. Ah, con vi invita. Aspettiamo sì, l'invito allora. Invite, buono invite, io magari vengo. No, se no vediamo. Buono, Buono, guarda, oggi non è successo, ormai lavoriamo insieme io e Pardo da una vita. Oggi per la prima volta ha portato anche la torta di Simona. Sì, sua moglie. Mia moglie. Sua moglie. Sì, perché l'altro giorno mi ha detto che non ti portava. Che bello, eh. L'ha fatta lei? Tagliamola, certo, fatta lei. Sì, sì, sì. Sì? Fatta, adesso la mangiamo, ma facciamo. Facciamo il programma. Adesso sì, sì, sì, sì, sì. De Luca Piattini, De Luca è veramente regista. Rude, molto Rude, vale. De Luca, invece, ah, resista, no, invece, te ne racconto un'altra. Io era a vedere Milan-Napoli 4-1, quella partita, una delle più belle partite ho che avete mai fatto. Sì, sì, sì. Primo sono tempo gol di dichiarate che questo Napoli è meglio dei Sacchi, tutta questa cosa dichiarata. Io spero, perché sennò no, perché io voglio che le altre squadre migliorino sempre. Cioè, no, ma poi io penso per chi ama il calcio offensivo, e gli olandesi amano il calcio offensivo, no? Che, sì, che sì, il Napoli sia in questo momento, forse un po' troppo. Sì. Mi sembra che il Napoli in questo momento sia una bella bandiera per il calcio sì, italiano, no? Perché sì, è una squadra che gioca quel tipo di calcio. Sì, è bello. È un peccato che noi in Olanda non vediamo molto del calcio italiano, perché questo... nel passato tutti quanti guardavano in italiano. Siamo messi adesso male, vedi ogni tanto una partita. Partita, da farlo vedere, sì, Eurosport, non è più solo i canali normali che si vedono sempre il calcio, si vede inglesi, si vede Germania, si vede la Spagna, so. È un peccato, ma la cosa che io sono sicuro, quando i stadi in Italia cambiano, perché sono tanti vecchissimi, no? Lo sai, sono vuoti, per esempio... E la Juve, nuovo certo, stadio dell'Alpi, c'erano 30.000 persone in un stadio di 80, mi sembra. Adesso è un bel stadio, tutto bello, e la gente vuole venire. Questo dove... Il Milan ha tentato anche questo. Sì. Soltanto che in un posto era un po' difficile da costruire. Era qua ho dietro, già detto. Quasi sì, qui. Sì. Però io spero che trovino ancora un altro posto con un nuovo stadio. E anche altri, mi sembra Roma anche Roma ci fare, proverà, anche vediamo, lì hanno messo, ci stanno parlando tutti. Senti, anche Berlusconi lo senti? Fiorentina anche un altro stadio, no? No, Fiorentina ci sta provando un po' tutti. Senti, Berlusconi lo senti? Ti fa effetto pensare che possa cambiare la proprietà del Milan? Sì, mi fa, naturalmente lui è stato il presidente più onorato e ha vinto più coppe di tutti gli altri presidenti. Ma i tempi cambiano, anche per Berlusconi, lui ha pensato molto, lui è un fan incredibile, anche adesso il mondo sta cambiando, in Inghilterra ci sono tanti club, sono in proprietà, sono americani. Ma questi cinesi, no? Secondo te sono incredibili? Adesso sono anche cinesi, anche in Olanda c'era anche un proprietario cinese, il mondo sta cambiando e nel passato non si poteva neanche pensarsi che in Inghilterra diventava più popolare il calcio che in Italia. So, il mondo sta cambiando e gli italiani devono cambiare anche. Adesso è venuto perché a Milano, perché non c'è più soldi, hanno dovuto mettere i giovani. Questo, certo, è, questo certo. È, prima era negativo, adesso diventa positivo, adesso è venuto molto più giovani. Perché devono? Perché non hanno i soldi per comprare quelli. Che i giocatori ci sono, soltanto che devi dare una possibilità. Difficile. Però qui. I top 4 del mondo non hanno possibilità di inserire un giovane perché devono sempre avere i risultati. E i risultati fanno sempre con giocatori che hanno già dell'esperienza, comprano sempre i giocatori. Senti, che adesso costano 100 milioni. Toglimi una curiosità. A proposito, quel Milan-Napoli, sì, 4-1, primo tempo segnano Maldini e Van Basten, e io ero vicino ai tifosi napoletani e mi dicono: l'importante è che non segna Gullit. Doppietta nel secondo tempo. Ah, ok. Così c'era. Mi togli. Che ci avevano? Non lo so. Allora, l'importante è che non segna Gullit. Doppietta nel secondo tempo. Dice la leggenda che quella partita 1-1 Real Madrid-Milan al Bernabeu, sì, dice la leggenda, con quel gol di Van Basten. Aspetta, dice la leggenda che i giocatori del Real Madrid di solito picchiavano i pugni sul muro e gridavano vamos a ganar, sono usciti nel tunnel dello spogliatoio e hanno visto in faccia te Gullit, Van Basten, Baresi, eccetera eccetera, e non erano più così contenti. Ma non so che cosa devi chiedere a loro, io non so. C'è anche un cancello, no, in mezzo. Sì, cancello, sì, così non potevo sapere. Unica cosa che so, io cancello. Ho fatto un gol, no, che hanno annullato, che non era neanche fuori gioco. Ma a Bernabeu è fuori gioco. È stato uno speciale. Senti, ma non guardare la palla vale anche fuori dal calcio? Cioè, ci sono delle cose che ci portano lontano dal senso vero e che tendiamo a guardare altre che col passare degli anni hai capito, hai colto? La cosa è che nella vita, che io sono sempre un uomo positivo, io credo in me stesso, ma soprattutto devi credere anche che la vita è un'avventura con cose anche negative nella vita. La cosa negativa ti fa l'uomo o la persona che devi diventare. Non soltanto, con tutto positivo tu pensi soltanto a se stesso e non pensi alla cosa intorno di te perché tutto va bene. So, io sono sempre positivo. La cosa importante nella vita è devi fare la tua squadra con gente intorno di te. È vero. Tu sei responsabile di questa squadra. Quando tu hai gente negativa in intorno, devi mandarla via. È difficile perché ogni tanto sono gente che sono vicino, però per avere la squadra giusta deve avere positivo, che veda la vita positivo. Questa gente che sono sempre muso, che sempre negativo, hanno sempre qualcosa da lamentarsi, devi buttare via dalla vita perché non ti possono aiutare di avere una squadra giusta. Mica. Senti, facile, ma lui. Vuoi tornare a fare l'allenatore, tra l'altro, visto ma il tipo sì, di... a questo momento io adesso non ho fatto allenatore per tanto tempo perché c'ho un figlio che vive con me, sono apparente, papà e mamma tutte e due, naturalmente non puoi sostituire la mamma, però io ho dovuto farlo e avevo la responsabilità di lui, è venuto da me da vivere e so così ho dovuto cancellare tante opportunità. Sono contento perché penso che quello che ho vinto, questo che ho fatto adesso, mi sembra la coppa più importante, di vedere la tua figlio crescere in un modo, perché io non so che lo faccio bene essere parente, non si sa, non nessuno lo sa bene, perché sei sempre genitore, sei sempre genitore. All'inizio hai piccoli problemi, ma quando i figli diventano grandi hanno grandi problemi. Sei sempre tuo figlio. E anche io questa è un'avventura, è molto difficile per tutti. Senti, i parenti del mondo. Diamo a Marco e a Carlo la possibilità quantomeno di salutare Gullit. Ah no, sono cadute le linee, volevamo far parlare anche gli ascoltatori, però ne sono arrivati. È caduta la linea? Ci chiamano dal lago di Como, Chiara interista dalla nascita, che Gullit che bello, l'ho visto al telegatto. Simpatia contagiosa, Telegatto, un certo sì. Frank, non so se è Rijkaard, ma comunque non lo so. Ascoli Milan, fallo fischiato a Gullit, in ginocchi davanti all'arbitro e vieni espulso, ti ricordi? Che cosa ha fatto? Ti sei messo in ginocchio davanti all'arbitro. Sei stato ha fatto espuso. Il ginocchio? Ti hai rimesso in ginocchio. Ah, ok. Era lo bello, no? Non lo so. Non lo so se era bello. Marco da Como, anche lui, sì, il cappellino. Vabbè, dobbiamo chiudere qui. Il coltello, sono arrivati pure i piattini. Adesso, come diceva Rud, dalle cose passiamo brutte possono nascere cose belle. Cioè, adesso la cosa brutta è che è finita la puntata. La cosa bella è che mandiamo la torta. Mandiamo la grande. Un momento, no? Grazie, grazie. Prego, state grazie. Ti saluto da Santi, da dovunque. Tutta Italia. Ciao ragazzi, ciao, buongiorno a tutti, ci sentiamo domani.